Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Abbiamo sperimentato tutti e sperimentiamo continuamente l'effetto che una brutta giornata di cielo grigio, piuttosto che un ambiente troppo angusto o povero di finestre, possono avere sul nostro umore e di conseguenza su tutte le nostre attività quotidiane. Un'esperienza che ormai confermano molti studi, quali evidenziano come le condizioni di illuminazione, per esempio, abbiano un forte impatto sulla produttività lavorativa e sulla produttività nello studio. In particolare, stiamo meglio quando percepiamo una situazione che potremmo definire così naturale, il che non è certo sorprendente. Ed ecco perché stasera parleremo di Coelux, una tecnologia nata dopo 10 anni di ricerca del team condotto dal professor Paolo Di Trapani, docente di fisica presso l'Università dell'Insubria di Como, una tecnologia che letteralmente porta il cielo in una stanza. Buonasera Di Trapani. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Senta Di Trapani, allora facciamo così, diciamo che io entro in una stanza dove c'è uno di questi Coelux, che cosa vedo? Sostanzialmente lo posso raccontare con gli occhi di quelli che sono entrati nelle numerose installazioni. Non succede assolutamente nulla, non c'è nessuno stupore. Perché non si capisce che cosa sia di fronte? Perché le persone pensano di trovarsi in una stanza con una finestra. Ecco, la cosa inusuale è che questa finestra è a soffitto, quindi consente di vedere il cielo sopra di noi come noi siamo abituati a vederlo in outdoor. Ma a parte questo, le persone mi chiedono: ma dov'è l'innovazione? Avete trovato un modo di illuminare le piante diversamente? Avete studiato delle pitture per le poltrone, per gli arredamenti? Solo quando escono fuori e guardano che siamo all'interno di una fiera di alta 9 metri. E quindi il cielo, insomma, non si può vedere da lì. Il fatto è che quella non è una finestra, anche se è praticamente impossibile accorgersene quando si guarda. Che cos'è? È una finestra virtuale, è un apparato ottico, è un macchinario che riproduce non solo l'immagine, ma anche la luce che esce da una finestra dietro alla quale c'è il cielo sereno e un sole splendente. All'interno della stanza la scena è illuminata esattamente come davanti a una finestra, gli oggetti sono sotto il... Quindi c'è, per intendersi, il fascio di luce solare che entra, raggi paralleli, netto, e poi la luce azzurra, che è quella del cielo, che si diffonde dappertutto. Quindi è tutt'altro che uno schermo, è qualcosa di molto molto più complicato anche di uno schermo 3D, per capirsi, no? Assolutamente, perché in uno schermo lei può benissimo rappresentare un'immagine di una fotografia presa da una finestra, ma se si siede davanti ad uno schermo, mai e poi mai il sole che c'è nell'immagine la illuminerà e disegnerà la sua ombra, e la sua ombra sarà colorata dal cielo. Quindi anche in uno schermo 3D lei potrà vedere sì la profondità della scena, ma comunque si tratterà sempre di luce diffusa. Uno schermo 3D non illuminerà mai gli oggetti e mai disegnerà le ombre e mai colorerà queste ombre. Perfetto. Senta, ci può dire qualcosa della tecnologia che c'è dentro con la quale avete ottenuto questi effetti? Noi abbiamo sostanzialmente ricostruito il processo che avviene in natura, non imitandone semplicemente gli effetti con delle immagini, con delle luci colorate, ma riproducendo esattamente la stessa fisica. In primis il cielo. Il cielo è azzurro per effetto delle fluttuazioni in densità delle molecole d'aria che, verificandosi su scala nanometrica, quindi 10 alla meno 9 metri o un milionesimo di millimetro, fanno sì che solo la componente a corta lunghezza d'onda, l'azzurro, quindi sì, blu-azzurro, venga diffuso, mentre la componente complementare giallo-rosso passi. Questo che noi alla sera vediamo il sole sempre più rosso, mentre il cielo... Esatto, ecco perché è esattamente quello che succede. Il sole illumina l'atmosfera, però diciamo cattura bene l'atmosfera solo la parte azzurra, mentre quella rossa e gialla passa dritta. Per cui noi quando guardiamo il sole lo vediamo giallino e vediamo l'atmosfera azzurra. Voi ripercorrete sostanzialmente questo processo. Solo che abbiamo compresso 10 km d'atmosfera in qualche millimetro. Questo certo, perché abbiamo utilizzato non delle fluttuazioni di molecole d'aria, ma delle nanoparticelle. Insomma, abbiamo capito che si tratta decisamente di tecnologia d'avanguardia. Senta, al di là dell'aspetto illuminotecnico di cui abbiamo parlato, c'è qualche altro fatto importante? Banalmente penso che non siamo più neanche abituati a guardarlo, il cielo. Certo, perché noi diamo per scontato tutto ciò che ci sembra ovvio, ma con Coelux, cosa che non possiamo fare col cielo naturale, noi lo possiamo spegnere e riaccendere. Certo. E così le persone si accorgono di che cos'è il cielo e quando escono fuori lo guardano come fosse la prima volta, cogliendo le ombre di colori e di quella enorme distanza, altrimenti quasi uno spazio ostile, 150 milioni di chilometri, certo, che ci separano dal sole, È proprio questo spazio tra noi e il sole che illumina il mondo che noi guardiamo che diventa la nostra casa. L'uomo non è fatto per vivere in un box, siamo tutti claustrofobici, sì. La nostra vera casa è l'universo. Va bene, con queste parole così alte, insomma, per noi che ci occupiamo di tecnologia ci lasciamo. Grazie di Trapani. Grazie a lei. Anche per stasera è tutto, appuntamento a domani.